Europa 24. E come sentivamo, oggi è il giorno delle elezioni del Presidente del Parlamento Europeo, che succede a Martin Schulz, candidato alle elezioni tedesche. Un saluto da Anna Migliorati. Nell'emiciclo di Strasburgo si vota da questa mattina. Gli schieramenti ormai si vanno definendo, così come le alleanze. Siamo al secondo voto. Un favorito c'è, ma i numeri e le alleanze di questa giornata ce le racconta intanto Sergio Nava. Sì, buongiorno. In corso proprio in questi minuti il conteggio della seconda votazione dell'Europarlamento, dopo che la prima votazione della mattinata non è riuscita, come da pronostico, a eleggere il presidente dell'Assemblea di Strasburgo. Il popolare Antonio Tajani si è fermato a una settantina di voti dalla maggioranza necessaria, con 274 consensi. Un po' sotto le aspettative il socialista Gianni Pittella, con 183. Molto staccati tutti gli altri, con la terza candidata italiana, Eleonora Forenza della sinistra, quinta con 50 voti. La vera notizia della giornata finora però è la rottura ufficiale della grande coalizione tra socialisti e popolari, che ha dominato i primi 2 anni e mezzo di legislatura. Nella notte i popolari hanno raggiunto un accordo programmatico con i liberali di Guy Verhofstadt, che si è ritirato quindi dalla corsa alla presidenza, incrementando notevolmente le possibilità di Tajani di venire eletto in tempi rapidi, senza aspettare la quarta e ultima votazione serale, quando il ballottaggio sarà ristretto ai 2 candidati più votati. Se l'italiano Tajani ha grosse possibilità di venire eletto, è ancora difficile prevedere quando né scartare del tutto sorprese dell'ultima ora, anche perché non tutti i deputati liberali hanno digerito l'accordo col centrodestra, come emerso chiaramente dalla prima votazione. La seconda votazione sarà molto indicativa anche per capire se le 2 principali candidature cominciano ad aggregare i voti degli altri contendenti. Una settantina di voti che sarebbero decisivi potrebbero arrivare a Tajani dai conservatori europei, che stanno ancora un po' temporeggiando a minuti il risultato del secondo voto. Per ora è tutto. Grazie Sergio Nava, naturalmente continueremo a seguire questa giornata. È giornata di attesa quella di oggi per l'Europa, anche per un'altra decisione che però arriva da oltremanica, perché la premier britannica Theresa May, dopo mesi di incertezza e a oltre 6 mesi ormai dal voto sulla Brexit, ha definito una sorta di roadmap con l'Unione Europea. A little over 6 months ago, the British people voted for change. 6 mesi fa gli inglesi hanno votato per il cambiamento, per lasciare l'Europa e abbracciare il mondo. Il compito di questo governo è portare a compimento questa scelta. Theresa May punta sulla chiarezza, toni pacati ma fermi e parole ripetute ben più di una volta. Una Gran Bretagna globale, questo è il titolo della conferenza stampa, più forte e prospera. Una Gran Bretagna fuori dall'Unione, ma non dall'Europa, perché, sottolinea la Primo Ministro, i nostri valori sono gli stessi. Ma l'Unione deve imparare la lezione della Brexit. La mancanza di flessibilità delle istituzioni europee ha portato all'uscita della Gran Bretagna. E Londra vuole un'Unione forte, un vicino forte e altrettanto prospero, con il quale firmare un accordo di libero scambio. La Gran Bretagna non aderirà ad accordi già scritti, giocherà alla pari con l'Unione così come con il resto del mondo, cercando nuovi mercati in cui espandersi. Resta la collaborazione forte con i vicini europei sulla lotta al terrorismo. La sicurezza è un bene comune che va tutelato, ma Londra riprenderà il controllo dell'immigrazione dai paesi europei e si ritirerà dalla giurisdizione della Corte Europea di Giustizia. Gran parte del discorso è dedicato alla crescita e alle possibilità commerciali del Regno Unito. Cita anche le parole del presidente Trump, la May. Poi l'immigrazione, su cui però una strategia precisa ancora non c'è. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Allora, Europa che vi aspetta con tutti gli aggiornamenti di oggi, naturalmente nell'edizione di GR24, e poi questa sera alle 21, effetto notte come sempre, Spazio Europa è dedicato oggi alla giornata di Strasburgo. Avremo a quel punto il nuovo presidente del Parlamento Europeo. Ci fermiamo qui invece per ora e ancora un saluto da Anna Migliorati. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.